This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. E buonasera a tutti, anche questa sera con This is not an exit, ma puntata speciale. Abbiamo pensato di rendere omaggio a un personaggio per noi iconico, Lemmy, cantante di Motörhead, e purtroppo ci ha abbandonato anche David Bowie pochi giorni fa, ma questa su Lemmy andava ben pianificata, ben pensata. Intanto buonasera, buon ascolto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, buonasera anche agli ospiti in studio e grazie di essere qua con noi. Buonasera, dottor Scarpa. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sì, io torno per la prima volta per l'anno 2016, lasciando un 2015 abbastanza nefasto per le scomparse dei nostri eroi, però il 2016 non si è aperto molto bene. Il Duca Bianco infatti ci ha lasciato, un saluto al Duca Bianco, insomma, ovunque lui sia. E quindi stasera sarà in compagnia di Lemmy in qualche parte dell'inferno. O con Lou Reed magari. O tutti e tre assieme, a divertirsela. O comunque, non lo sapremo mai, non ce ne frega niente e penso che non gliene fregherebbe un accidente neanche lui. Prima di allora volevo diventare un domatore di cavalli, era quello il mio sogno. Poi ascoltai Little Richard e scoccò la scintilla, perché pensai, grande davvero, un suono fichissimo. Poi scoprì che anche le donne avevano a che fare con quel mondo, era fatta. Il rock and roll mi stravolse tutti i programmi, arrivò all'improvviso e cambiò ogni cosa, cambiò tutti. Mi ricordo ancora com'era prima, più o meno. Mamma mia, prima del rock and roll non c'era niente, era davvero terribile. Exactly. That's how you got hooked up with Mickey. Well, we got engaged. I'm out. possible. No, this is years and years ago. We toured with Motorhead 87 with King Diamond. Quello di Lemmy con la scuola, invece, era un rapporto destinato a interrompersi. Quando si tagliò per sbaglio il palmo della mano con un coltello a serramanico, il preside decise di punirlo con due bacchettate per mano, per aver marinato la scuola. Il ragazzo chiese all'uomo che gli fosse risparmiata la mano ferita e che gli desse quattro colpi sull'altra. Il preside non volle sentire ragioni e lo colpì anche sul taglio, che cominciò a sanguinare. Infuriatosi per quella tortura tanto inutile, Lemmy strappò di mano la bacchetta all'insegnante e lo colpì in testa. Fu espulso in tronco. D'altronde, una volta smesso di andare a scuola, la futura rockstar si ritrovò a seguire, come tanti, lo sconfortante percorso lavorativo della working class, un ambiente che conosceva fin troppo bene, con una successione infinita di impieghi temporanei e penosi. Il lavoro in fabbrica fu un passo inevitabile, me lo immagino. Cominciò al tornio. In effetti, fare l'operatore al tornio mi fece bene. Mi convinse che era meglio morire di fame piuttosto che continuare con quella vita. Alcuni colleghi di allora, invece, sono ancora lì perché non avevano alternative. Nel 1961, a 16 anni, Lemmy affronta il viaggio avventuroso da Anglesey a Liverpool per vedere i Beatles al Cavern Club. Da sempre citata come una delle band che più lo hanno influenzato, i Beatles gli lasciarono impresse sensazioni che non avrebbero abbandonato più. È incredibile quanta gente ha deciso di mettere in piedi un gruppo di musica rock grazie alla loro musica. Forse perché furono la prima vera band a proletariato. Erano della classe operaia, la dimostrazione che chiunque poteva farcela da solo, dichiarò. Non ci sarà mai più una cosa del genere perché loro raggiunsero l'apice della loro arte e, una volta arrivati in cima, spazzarono via tutto il resto. And I guess you've got the character Pinhead in the video. Yes, sir. Bella banda. We'll be right back. Siete sempre su This Is Not an Exit. Stiamo parlando, lo avrete capito, è inconfondibile, del buon Lemmy e dei suoi Motorhead. Voi direte, ma perché a This Is Not an Exit, che di solito sono così precisi, focalizzati tra 88 e 93, parlano dei Motorhead? Perché i Motorhead c'è poco da fare, trascinano il rock and roll, l'hard rock attraverso il punk fino ai giorni nostri, non hanno mai smesso. E anche in questo periodo 88-93, quando esce questo live da cui stiamo estraendo la maggior parte dei brani, erano ancora sulla cresta dell'onda, vendevano un sacco, anzi questo live fu uno dei loro maggiori successi. Non solo, probabilmente grazie ai Motorhead il metal sopravvive, muta pelle e rinasce negli anni 80, dopo gli exploit di Deep Purple e dei Black Sabbath inizio 70, ma era un'altra storia, un altro periodo. Lemmy ha visto tutto. Lemmy era in giro dall'inizio degli anni 60, tant'è che nel 62 in Inghilterra suonava già con un gruppo, direi sconosciuto di più, si chiamavano i Rockin' Vickers, e arrivarono addirittura a firmare un breve contratto con la CBS, pubblicarono dei singoli, fecero un tour europeo, fino a suonare in Inghilterra, in Jugoslavia, dall'Inghilterra, e furono la prima band a suonare in Jugoslavia. E come ricorda Lemmy, siamo stati il primo gruppo inglese a poter suonare al di là della cortina di ferro. Ci scattarono una montagna di foto accanto a barili di latte. Chissà perché. Cenammo anche con l'allora presidente Tito. Ci hanno servito un borscio terribile. Ero ubriaco fradicio e non credo di avergli fatto una buona impressione. Poi vai a capire come faccio a ricordarselo. Comunque. Yeah. obviously we've always got some killer contests and this is one of those, so keep on watching so you can have details about it. And back on the subject of Motorhead, we were talking a little bit about this tour and you've got some of the... Lemmy aveva un buon aggancio nella capitale. Tempo addietro aveva conosciuto John Lord, organista degli Heartwood e futura rockstar. 5 anni più tardi, infatti, avrebbe fatto parte di una delle maggiori rock band del mondo, i Deep Purple. Trasferitosi a Londra per trovare qualche gruppo in cui suonare. È colpa di John Lord se sono venuto qui, spiegò Lemmy. Stavo con gli Heartwood e fece il terribile errore di darmi il suo indirizzo di Londra. A me, che ero il suo fan più entusiasta poi, e dire «Quando vuoi, vieni pure a trovarmi», senza pensare che l'avrei fatto davvero. Trovai un passaggio fino a West Drayton, fuori Londra. All'epoca John abitava dalla madre di Heartwood, ma io mi presentai alle 3 di mattina. «Scusi, c'è John Lord?» E lei, «No, caro, è in tour in Danimarca». «Di dove sei? Sei del nord, vero?» «Sì, sono appena arrivato. Sono venuto a trovare John. Mi ha dato questo indirizzo». E lei, «Va bene, vieni dentro, puoi dormire sul divano». Cioè, potevo essere anche un pericoloso assassino o qualcosa del genere, no? Al tempo il chitarrista degli Heartwoods era Ronnie Wood, il fratello di Art, che come John e tutti gli altri aspirava alla fama. Nel suo caso arrivò prima con i Faces, poi con i Rolling Stones. Ad ogni modo, Ronnie, allora nei Byrds, rimase di sasso quando, entrando nel soggiorno della madre, si trovò di fronte a un hippie puzzolente che dormiva sul divano. Mi svegliai con tutti i Byrds che mi fissavano e Ronnie mi fa: «Ma chi è questa testa di cazzo? Che ci fa lì sopra?» Insomma, rimasi per un po' di giorni con il gruppo. E devo dire che fu grandioso. Li seguivamo ovunque. Una volta dormimmo nel loro furgone, fu incredibile. Era prima dei veri Ford Transit o roba del genere. Quindi mi sembrava una cosa di un certo lusso. Sue prime Lemmy abitò in diverse case occupate, compresa una a Bromley, insieme a un certo Murph. La band dove suonava in quel periodo scomparve ancora prima di cominciare. Il nostro batterista non aveva nemmeno lo strumento. In compenso aveva dei cuscini d'aria e li aveva persino accordati. Suonavano anche piuttosto bene, meglio di quanto ci si possa aspettare. Tutto questo mentre io, giovane e stupido, aspettavo che si decidesse a comprare una batteria come si deve. Così dopo un po' me ne tornai a casa. We'll be right back. suspense could be released. Un roadie della Jimi Hendrix Experience lo ospitò sul pavimento e quando gli chiedero di trovare un altro ragazzo per l'imminente tour della band, Lemmy diede subito la propria disponibilità. Andavo sempre a seguire tutti quei gruppi in concerto e tutto a un tratto mi ritrovai a portare loro l'attrezzatura. Facemmo Hendrix, i Move, i Pink Floyd con Syd Barrett, gli Amon Corner, i Nice con David O'List e gli Heir Apparent, che poi divennero la Grease Band. Tutto per una paga niente male. E poi fu meraviglioso vedere Hendrix all'apice del suo talento. L'ho visto suonare un sacco di volte, 2 set a sera per 3 mesi circa. Suonava anche dietro le quinte. Aveva una chitarra Epiphone a 12 corde, che incordava a 6, e la suonava nel backstage in piedi su una sedia. Ora, perché salisse su una sedia non l'ho davvero mai capito. Noi però vi ricordiamo che siete sempre su This Is Not An Exit. Stiamo parlando ovviamente di Lemmy, delle sue avventure e i suoi aneddoti, che sono veramente tanti. Tra le altre mansioni, Lemmy doveva procurare l'LSD per Hendrix. In Inghilterra l'acido rimase legale fino al 1971 e fu una sorta di moneta comune dell'era psichedelica. Al pari del suo boss, va da sé che Lemmy non si risparmiava in tal senso, indotto anche dell'abitudine di Jimmy di condividere le proprie scorte. E chissà che scorte. Ero io a comprargli la roba. Acquistavo 10 pasticche, 7 erano per lui, 3 per me. Tutto sommato un accordo equo. ma Lemmy fu anche testimone della passione di Hendrix per i gruppi. Se volevi assistere a una scopata acrobatica, Jimmy era la persona più adatta. Non ho mai visto niente del genere. C'era sempre la fila delle ragazze fuori dal camerino. Era una situazione tipo prendi il numeretto e aspetti il tuo turno, come la Cop. E non mancò mai di sottolineare il talento straordinario per la chitarra elettrica. Suonava solista e ritmica insieme, sotto le gambe, dietro la schiena, a sinistra, a destra, al contrario. Beh, insomma, la celebre Summer of Love dovette essere un buon periodo per il giovane Lemmy. Aveva appena 21 anni. Tra orde di ragazze swinging 60s, conquistate sia come corollario del lavoro di Rhodey per Hendrix, sia per conto proprio, dose massicce di acido e la miglior musica rock mai suonata o incisa, Lemmy aveva trovato il suo mondo ideale. A questo proposito, più tardi, avrebbe citato Mr. Tambourine Man, brano di Bob Dylan inciso nel 1965 dai Byrds, come la canzone che più gli ricordava quel periodo. Grande pezzo estivo, mi fa tornare in mente l'estate del 67. E lo stesso vale per Forever Changes, l'album del Love, pubblicato nel 1968. Che cosa ci fu di tanto grandioso? Beh, intanto ero giovane, e quando sei giovane ti senti libero, non hai preoccupazioni e ogni estate è comunque meravigliosa. Nel 1968 Hendrix si trasferì a New York, ma anche questo non rovinò la bella atmosfera del periodo. Divenne un vero e proprio spacciatore a Kensington Market, sottolineò Lemmy. Un posto perfetto per vendere roba, conoscere ragazze e scovare abiti che non trovavi da nessun'altra parte. Fichissimi, senza dubbio. Hendrix mi regalò un paio di giacche di camoscio, ma non erano della mia taglia. Così le diedi via come se niente fosse. Certo, non avrei mai pensato che di lì a poco sarebbe morto. Sberciare la roba era come vendere vino, aggiunse, che è buono a seconda del lato della collina dove hanno coltivato l'uva e così via. Verissimo. La droga era migliore allora. Ad esempio il meth, la metanfetamina idrocloride, quello con il teschio e le tibie incrociate sulla fiala. La usavano per bucarsi, ma io non l'ho mai fatto. La mettevo nel succo d'arancia e la bevevo. Si trovava anche per pochi penny. L'ultima volta invece l'ho vista a 150 sterline ed era 10 anni fa. All'epoca con una sterlina prendevi 10 Black Bomber e un Mandrax. Cioè potevi ucciderti con una facilità estrema. E non immaginavamo quanto di noi se ne sarebbero andati con quella roba. Il fatto che allora era tanto una novità. Era tutto una novità. Quando gli domandarono se fosse stato Hendrix a trascinarle al vortice della droga, lei mi rispose con un sorriso malizioso. No, sono stato io e solo io, perché ero curioso. Che poi è come c'entrano tutti. Anzi, più tardi spiegò che i primi anni a Londra non furono altro che un gigantesco trip. Tra il 66 e il 69 me ne sarò fatti almeno 1000 di acidi, un periodo incredibile. Solo più tardi avremmo scoperto qual era il rovescio della medaglia, quando ci furono tutti quei casi psichiatrici. I saw the armored wheels run. Motorhead prendono il nome da una canzone scritta da Lemmy e precedentemente registrata con gli Hawkwind. La canzone si chiama appunto Motorhead e parla di... Motorhead significa una persona fatta di speed, essenzialmente, che tra l'altro era la droga di scelta di Lemmy nei primi periodi del gruppo. Tanto per rimanere in tema. Esatto, per rimanere in tema di droga. E l'ultima strofa di questa canzone, Lemmy canta Fourth day, five day marathon, we're moving like a parallelogram. Cioè, quarto giorno di una maratona di cinque giorni, ci muoviamo come un parallelogramma, che è forse uno dei versi più belli scritti nella storia del rock, una roba che non si sarebbe mai immaginato nessuno. Di muoversi con un parallelogramma sotto gli effetti dello speed. Strani casi di percezione alterata. This is a song from the rock and roll album. It's all down. Who knows the times again? Siamo sempre a This is not an exit, sono le 22:09 minuti primi, siete in diretta, se volete mandare qualche sms potete ancora farlo. 348-7649-289, ripeto, 348-7649-289. Giusto per gradire o per capire se vi è piaciuta, se vi sta divertendo ascoltare gli aneddoti della lunga e tempestosa vita del buon Lemmy, capofila dei Motorhead. Uno che ne ha viste veramente tante, per esempio io non lo sapevo che tagliarono, a un certo punto si mise a tagliare la stricnina con la stricnina l'LSD, ma lo dice proprio lui, chissà se è vero. Fu quando cominciarono a mescolarsi la stricnina, anche se io preferivo lo speed, che è come dovrebbe essere cocaina, che smise di prendere l'LSD. La coca è la droga più triste del mondo, costa molto di più, ti fa meno dello speed e dura anche di meno. Attenzione però, non tutti reggono lo speed. Ho visto gente andarci sotto in una sola settimana, perché il sistema nervoso centrale non è fatto per resistere a quella frequenza respiratoria. 1000 trip in 3 anni equivale grosso modo a una pasticca al giorno, e se consideriamo quanto era forte la roba all'epoca, fa un bel po' di carburante per l'eccitazione mentale. Chiunque abbia sperimentato le montagne russe lisergiche, che possono andare dal viaggio blando all'olocausto psichico, non potrà non provare ammirazione per Lemmy, che venne fuori da quel periodo senz'altro cambiato, ma tutto sommato in buone condizioni, e alla fine la retta fino in fondo. Been the best band in the world, but we are definitely the fastest. This is another new song that you have not heard ever, even Mother TV. This is one I wrote the words for at 4:30 the day before yesterday in the morning, pissed as a mute. This is called On the Road. Come dicevamo, Lemmy ha vissuto un'epoca infinita, tutta la storia del rock, e riporta cose belle e cose brutte, tra cui quella che molti compagni dell'epoca, per contro, non tornarono più indietro. Se Lemmy si strafaceva di 1000 acidi in 3 anni, qualcuno, come per esempio Peter Green dei Fleetwood Mac, si bruciò il cervello. Ed è impazzito del tutto, e non è che si trattasse di un caso isolato. Era così ovunque quei tempi, a sentire il buon Lemmy. Stava con una ragazza che lavorava in un pub di Londra, si chiamava Speakeasy. Il locale era sempre pieno di gente del genere. Ci andai una sera e c'era anche Peter, del Fleetwood Mac. Aveva la barba ed era vestito di bianco. Portava i sandali e stette tutto il tempo in iperventilazione, ma senza motivo. E poi non fece che prendere Valium per cercare di stare tranquillo. Un caso tragico. E che in quei giorni di ingenuità nessuno poteva immaginare che l'acido non avrebbe più restituito alla normalità parte di chi lo consumava. Lemmy rammentava, ad esempio, che le sessioni di Axis, Bold as Love, di Hendrix, erano state animate proprio dalla droga. Vabbè, anche per chi non era nella band. Invitarono la stampa per un primo ascolto e noi gli mettemmo l'acido dovunque, raccontò. Era un modo per mandarli fuori di testa. Tutta quella merda nei panini, nei biscotti a formaggio e così via. Noi dovevamo solo aggiungere l'acido ai sandwich, 4 francobolli ciascuno, e quegli stronzi se ne stavano tutti lì a masticare, tranquilli. Troppo bello. E poi ci ritrovammo che nel parcheggio, chi nascosto sotto l'auto, anzi c'era gente che si nascondeva dall'auto. Chi si metteva la guida felice e contento, tutti strafatti. Cazzo, era davvero troppo forte. Era uno spettacolo unico. Alcuni fermi all'angolo a far fugliare l'assurdità. È stato davvero irresponsabile, lo riconosco. Pensavamo che l'LSD fosse la nuova acqua santa, anzi, abbiamo rischiato di cambiare il mondo grazie a quello sballo. Boh, Dio. Forse Lemmy era dotato di una forza d'animo che mancava ad altri, o magari fu solo fortunato, se consideriamo quanto fossero casuali i vari metodi di assunzione delle droghe. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, Lemmy era ancora giovane e forte, ma non smise tanto presto. Anzi, lo faceva con il giornale. Aveva un cristallo da 100 trip che scioglieva in un contenitore di vetro con un po' d'acqua. Aspiravo tutto e lo stendevo su un giornale. Non fate queste cose a casa vostra. Lo lasciavo asciugare, tagliavo la carta a pezzettini e le rivendevo. A volte rimaneva lì a leccare della semplice carta del giornale. A volte un francobollo valeva per 3 o 4 trip. Era una specie di roulette russa con il cervello. Ad ogni modo non è così pericoloso come dicono. Non fa altro che amplificare quello che sei già. Nel complesso, per Lemmy l'acido alla fine fu anche una buona esperienza. Ricorda, ti dà una visuale differente sulle cose, anzi, parecchie visuale. Per fortuna non mi sono rovinato per averlo preso. Mi ha reso più riflessivo, però provate a immaginare se non l'avesse preso. Più tollerante. E poi mi ha fatto capire che niente è impossibile. Niente. Tutto è casuale. Ogni cosa è casuale. Tendiamo tutti ad applicare i nostri schemi mentali alle cose, ma la natura non segue una linea retta. Del resto, dove sono adesso gli antichi romani e i loro edifici favolosi? Tutte rovine coperte da erbacce. L'acido è roba grandiosa e non riesce più a farne a meno. Oggi, invece, è fatto con lo speed e c'è anche la stricnina. Quello di adesso è pessimo. I tell you what, everybody born, everybody dies, right? Everybody born for something, everybody died for something. Well, we're lucky to be here, because we should have died a long fucking time ago. But we didn't, we're still here. You know what we're born for? We're built for speed. Beh, siamo alla fine anche di questa puntata di This is not an exit dedicata a Lemmy e ai Motorhead. Ringrazio Luigi, Francesco, Marzio di essere stati qua ospiti nostri per la collaborazione, soprattutto Marzio che ha selezionato un sacco di brani da un libro che si chiama ovviamente La storia dei Motorhead, scritto da Joel McIver. Lo potete trovare prodotto stampato qua a Bologna da Tsunami Edizioni. Beh, insomma, buonasera a tutti, con il buon Lemmy salutiamo e ringraziamo pure lui. Buonanotte a tutti con Ace of Spades e a risentirci giovedì prossimo sempre alle 21 su queste frequenze. The ace of spades, the ace of spades, alright.